Una buonasera con Max Macchia per 451 Frammenti Sonori, serata conclusiva di quest'annata, appunto 2012-2013. Saluto soprattutto chi ci è stato vicino, insomma, con l'ascolto, che ha avuto la pazienza, oltre che, beh, magari in qualche caso, insomma, la gioia ad ascoltarci. Quindi un caro saluto ovviamente a coloro, insomma, che hanno voluto seguirci in questo tortuoso cammino radiofonico, e perché no, poi ce lo portiamo anche attraverso i microfoni, anche extra radiofonico, insomma, non siamo particolarmente finti anche quando siamo di fronte a questo aggeggio tecnologico, perlomeno non ci spaventa a tal punto da non essere perlomeno vicini alla verità, o tentare, insomma, di andare verso questa, insomma. E un saluto appunto da Max Macchia e da Eliseo Scarpa, che non è qua, ma chiaramente, come dire, anche lui chiude il ciclo di 451, e anche un saluto chiaramente da Lorenzo Albano, che cura tutta la faccenda bloghistica, quindi, insomma, a tutto il compiutissimo staff di 451. Poveri ma belli, bellissimi, direi, insomma, visto che sono giorni di cinema, soprattutto qua a Bologna. Poi magari qualcuno se lo fa anche extra Bologna il cinema, in tutti i sensi. E questa sera 451 in un certo qual modo andrà anche dalle parti di un immaginario che, se vogliamo, può essere cinematografico, quanto comunque poi visivo e sonoro. Tante volte il visivo si porta dietro il sonoro, soprattutto, insomma, in relazione a quello che sono musiche sperimentali, che vogliono quindi interagire con gli ambienti, questo in molti sensi. In questo caso, più che con ambienti, proprio con l'estensione di un immaginario quindi che, oltre che farsi visivo, si fa anche musicale, sonoro perlomeno. Escape from 451, perdonatemi, insomma, il giochino di questa sera, una fuga da 451, sia perché siamo in chiusura, sia perché, soprattutto direi, perché tratteremo la tematica della fuga secondo vari modi, insomma, di intendere questa, soprattutto una fuga decisamente escapista, in questo senso, insomma, prendiamo di forza il termine inglese, anche perché capirete immediatamente dove vogliamo andare a parare. E sì, sono fughe dovute sia a situazioni, insomma, insostenibili, quindi necessarie, volutamente necessarie, o magari non volute come tali, però, insomma, rese poi per l'appunto necessarie proprio dal fatto, insomma, dell'insostenibilità. E questo riguarderà alcuni casi, altre fughe che assolutamente volontarie si compiono per spostarsi da un piano all'altro, da una situazione ad un'altra, e magari anche dal terrestre all'extraterrestre, perché tanto, tanto spesso fughe spaziali in termini musicali e immaginari hanno fatto da base poi per viaggi ulteriori, appunto un immaginario che insegue un altro fondativo per poi crearne uno nuovo di fatto. E molte musiche di questa sera, soprattutto partendo dalle due fughe famosissime che questa sera apriranno, appunto, questo Escape from 451, hanno fornito quel materiale immaginifico, immaginario, che ha portato, insomma, a vedere, a sonorizzare, a musicare la fuga come momento sia drammatico, ma è un dramma comunque vissuto sia in maniera molto, molto bassa che dal basso, e soprattutto quasi una sorta di fuoriuscita. Una fuoriuscita quindi anche da situazioni, insomma, decisamente scure, come quella di Escape from New York. Magari qualcuno c'era già arrivato, che avremmo fatto un omaggio a Carpenter, e chiaramente un'altra fuga celeberrima della storia del cinema, che anticipa e per certi versi è anche fondativa per lo stesso Carpenter, ovvero quella di Alan Parker di Midnight Express, e quindi Fuga di mezzanotte per quanto riguarda appunto l'Italia, quindi Giorgio Moroder che non a caso sta passando un po' di più anche qua, 451, lo dicevamo già la scorsa trasmissione insieme a Buon Eliseo, che insomma, sono giornate quantomeno insomma importanti per il buon Giorgio nazionale, ma soprattutto internazionale, visto che è riuscito insomma a espandere le sue elettroniche su tutto il pianeta, e giornate importanti, vabbè, lo sapete un po' tutti, per la faccenda daft punkiana insomma di Giorgio by Moroder, e per un fatto insomma di recupero anche più critico, in questo senso decisamente buono, di tutto o di buona parte, perlomeno insomma a fine anni 70, primi anni 80, della materia sonora moroderiana insomma, che ha formato e informato generazioni insomma di musicisti, come d'altronde Carpenter, sia in termini di immaginario visivo che anche musicale, un affondo che facciamo in maniera traslata attraverso Zombie e attraverso Glenn Underground, Zombie che suonano appunto John Carpenter, e Glenn Underground che fa un grande lavoro su The Chase, e attaccandoci, facendo un mashup molto interessante con un altro brano assolutamente fantascientifico, assolutamente fuori dal tempo, fuori dal mondo, che riconoscerete insomma, mashup tra l'altro tra i più brillanti che si possono trovare musicalmente nel mondo soprattutto delle dance. Zombie, quindi Place John Carpenter, e poi appunto torneremo sulla materia della fuga con Glenn Underground e la sua Field Dub, presa chiaramente da The Chase, da Fuga di mezzanotte, quindi musicato da Giorgio Moroder e visivamente composto, mettiamola così, da Alan Parker. Due modi di intendere un immaginario sonoro fondamentale, basico, come quello appunto di Giorgio Moroder che abbiamo ancora in sottofondo e quello di John Carpenter con Alan Splatt, suo collega musicale per quanto riguarda appunto la sonorizzazione dei capolavori fatti da Carpenter. Chiaramente Escape from New York era la nostra fuga di questa sera, che iniziava a 451 e poi Fuga di mezzanotte appunto, e la trasazione veniva fatta appunto da Zombie, duo elettro synthwave, sicuramente insomma il riferimento è quello. Tra l'altro rimando anche alla bella trasmissione fatta con DJ Tretolo e Jerry proprio sulla minimal synthwave attuale, che prende insomma dalla cold wave, prende e dà molto da quelle sonorità tra rumorismo e freddezze elettroniche, però virate poi in una maniera così talmente zozza, talmente stradaiola, e però anche con quel appunto con quel senso scapico fortissimo da rendere assolutamente, oltre che essere delle vie di fuga a questo punto musicale anche piuttosto importanti, anche proprio dei veri e propri satelliti poi sonori che insomma irradieranno insomma segnali, e tuttora insomma lo stanno facendo, sia quelli appunto di Carpenter con Splatt traslati da Zombie, che suonano tutte le musiche, cioè tutte insomma buona parte delle musiche di Carpenter, dei film nel loro plays John Carpenter. E poi Glenn Underground, una leggenda di Chicago, soprattutto figura legata alla prima, ai primi esperimenti. Capisco che può suonare ancora strano, mi sembra strano che suoni strano appunto qualcheduno nel 2013 parlare di house sperimentale. Beh, andatevi a sentire ad esempio una splendida compilazione come quella della Soul Jazz dedicata all'acid experimental house appunto, e con quel riferimento Glenn Underground compie un lavoro di mashup decisamente interessante, di innesto o se vogliamo intenderlo in maniera insomma meno affascinante della terminologia commerciale del mashup, e su The Chase di Giorgio Moroder, quindi il tema portante di Fuga di mezzanotte. Poi un altro pezzo che appunto prima evocavo come I Feel Love, dicendo insomma un pezzo fantascientifico di fatto proprio per il suo aspetto sonoro assolutamente futuristico, deliberatamente futuristico, quella la cosa che ancora appassiona, e soprattutto poi quello spirito artigianale che muoveva sia sicuramente Moroder tanto Carpenter, quella artigianità che lo portavano tutte e due fuori anche dagli ambiti accademici o anche da figure insomma e da centri legati all'avanguardia, che però insomma avevano anche un carattere concettuale, che in questo senso veramente la zozzeria, chiamiamola così, e porta in un altrove molto interessante, una fuga che decisamente ha portato insomma filiazioni interessantissime, tra filiazioni assolutamente imbastardite come abbiamo sentito in Zombie, e invece lavori più filologici, se vogliamo, con tutto quello che riguarda insomma la storia musicale di Chicago, dalle forme jazzate, quindi dal free form di Chicago, appunto passando per gli esperimenti della prima house casalinga, assolutamente visionari in questo senso, cibante di tutto il Carpenter possibile, e anche appunto di Moroder. In effetti Grand Underground fa proprio questo innesto, in un certo qual modo riscrive scrivendo quello che è il suo stesso DNA, quello che è il DNA insomma di buone parti delle visioni musicali futuristiche, e una fuga quindi che per tanti versi insomma ci porta perlomeno in un altrove, se non addirittura ci sposti in avanti. Ital, progetto che sta interessando 451 e non solo, di Daniel Martin McCormick, già con Miami, formazione piuttosto interessante, una sorta di punk funk sclerotizzato, tra l'altro anche un bel concerto di spalla Wolf Eyes qualche anno proprio qua a Bologna. E Daniel Martin McCormick, lasciando insomma i Miami, che penso insomma siano già sciolti, a meno che insomma non ci siano delle reunion insomma prossime, no, anche future, per il momento sembra proprio di no, anche perché Daniel Martin McCormick, sia con il suo progetto Ital, che probabilmente fa riferimento insomma in qualche misura forse a Moroder, forse in più generale insomma ha certe visioni se vogliamo sui generis italiane, perlomeno italiche, insomma, visto la ragione sociale insomma decisa dall'americano. Ital andiamo a prendere da Hive Mind, tra l'altro con una faccenda anche piuttosto interessante legata alla Planet Mu, quindi a Yuzik, che è passato insomma in maniera assolutamente fondamentale gli anni 90 con le sue musiche assolutamente allucinante. Forse, senza forse, anzi, lo troveremo nella seconda parte con un omaggio quantomeno doveroso per insomma lui e due altri personaggi che hanno fatto della fuga musicale e scapica assolutamente una bandiera che sventola in maniera meravigliosa ancora, non soltanto appunto sul decennio dei 90, ma ancora adesso insomma si intravede a cieli aperti, ecco. E appunto Hive Mind, per quanto riguarda Ital, stampato da Planet Mu di Yuzik, decisamente interessante la faccenda di Planet Mu, anche per tutto questo recupero che sta facendo, direi di più, anzi di riscrittura proprio della synthwave, di certe sonorità che artigianalmente passavano dalle musiche cosmiche, quanta da certa disco deragliata e deragliante. E quindi il lavoro insomma di Yuzik anche come editore musicale è sicuramente molto molto interessante, e anche la produzione di Ital decisamente importante per un recupero tecnoide, ma e quella techno insomma che veniva fatta in maniera assolutamente geniale nel vero senso della parola in questi studi dove l'artigiano appunto al lavoro si inventava nuove forme musicali trattando appunto materie ancora piuttosto nuove per quanto riguardava insomma la massa perlomeno e l'accesso di questa alle prime strumentazioni elettroniche. E di fatto insomma Ital riprende un po' quell'epica, se vogliamo, quindi tanto di epica di Midnight Express, tanta di quella epica espressa in Escape from New York, appunto traslati prima e ascoltati con Zombie e Grand Underground. Invece Ital andiamo a sentire con un viaggio tutto suo dentro questo Floridian Void, per l'appunto tratto da Hive Mind. Thank you. Yeah. Beh, abbiamo citato prima, poi in realtà non l'abbiamo neanche citati, l'abbiamo soltanto, come dire, un attimino, ma soltanto un attimo, evocati per appunto quasi delle ombre e sonore, molto però anche visive, perlomeno per quelle che sono delle estetiche futuristiche, immaginifiche, appunto legate alle musiche e dance, sì, potremmo anche dire dance, ma in questi casi forse non ha neanche tanta importanza se citiamo insomma una certa Chicago, un prima con Grand Underground, e quindi come non fa riferimento a Larry Heard, come non fare riferimento le prime sperimentazioni insomma legate all'acid, al The Future, a quant'altro insomma hanno fatto nella materia sconosciuta all'epoca, forse dentro le corde di certo Moroder, dentro le corde di certi Kraftwerk, dentro le corde di certi già visionari, e lo Magic Orchestra, insomma i primi nomi che mi vengono in mente di tecnologie futuribili, danzabili in maniera appunto marziana, in questo senso. E come non arrivare anche, visto che siamo passati da Chicago attraverso la traslazione di The Chase e I Feel Love con I Feel Dub appunto di Glenn Underground, come non addentrarsi dentro la giungla sonora detroitiana, in questo caso di John Atkins, il padre, il maestro insomma del suono di Detroit, del suono futuristico di Detroit, uno dei suoni e più violentemente scapisti di sempre, e quello sempre allucinato di Moritz von Oswald, conosciuto negli anni 90 come Maurizio, e insomma, con la sua Basic Channel, con il suo mondo dub techno, e assolutamente visionario nel suo concepire un incrocio elettronico tra house e techno e vibrazioni cosmicheggianti, se non addirittura con quelle poi che si svilupperanno nel corso degli anni, anche una sorta di free form musicale, di dilatazione spazio-temporale del suono. suono, tale ad arrivare appunto agli ultimi lavori con von Oswald Trio, e anche a questo John Atkins insieme a Moritz von Oswald, Borderland, uscito poche settimane fa, dove i due grandi maestri, a questo punto uno di Torettiano e l'altro che proviene da terra, insomma anch'essa insomma decisamente importante per l'elettronica, ovvero la Germania, già evocata insomma con il nome di Kraftwerk, e fanno della loro maestria, del loro bagaglio assoluto in termini musicali, un viaggio dentro una materia che conoscono a menadito, e per questo trattano in maniera assolutamente magistrale, sempre con quel senso di lontananza che soprattutto insomma per quanto riguarda anche le vicissitudini di Joan Atkins, trasferitosi in Germania con insomma vari problemi personali e di dipendenze, e che riesce insomma a uscire anche da questa situazione con un suono che ancora veramente riesce a illuminare per suo senso insomma escapico, suo assoluto senso musicale in termini veramente grandiosi. E John Atkins e Moritz von Oswald, appunto, andare a trovare una grandeur musicale elettronica, escapista sì, ma con fughe veramente molto, che ci portano molto molto lontano. E qualche minuto poi la Radio Giornale, torneremo ancora con Moritz von Oswald e Joan Atkins, e poi appunto seconda parte di 451 frammenti sonori, questa sera dedicata appunto alla fuga, Escape from 451, in effetti è la puntata finale, tranne qualche extra perché siamo un po' pazzarielli, quindi potremmo anche tornare.